Di questo libro, grosso, come vedete, molto grosso, è possibile parlare a partire dai punti di vista più diversi. In un'ideale ripartizione di compiti, altro elemento di questo gioco da parte del padre del professor Ruge, ci siamo previsti di ripartire la materia grosso modo così. Banalmente, dal momento che io sono abbastanza esperto dell'ondato tempo che costituisce l'ambito spaziale sul quale la ricerca è effettuata, io parlerò soprattutto dei risultati tipo attuati o concreto, di novità sostanzialmente, che questa ricerca porta allo stato delle conoscenze di quest'epoca, 1849-1859, mentre invece il professor Ruge discuterà con maggior attenzione la filosofia ispiratrice di questo volume. Cosa che però credo che sarò comunque costretto in parte a toccare anch'io, perché dividere, diciamo così, questo libro da una parte risultati, dall'altra parte il metodo degli aspiranti è estremamente complesso. Questo è un libro il quale va letto a prescindere dai risultati che si possono andare a cercare, cioè è un libro che va letto per ragionare. Non è un libro in cui un lettore tendente a una lettura affrettata a capire qualche notizia qua e là può accostarsi con qualche possibile presunzione di proprietà in questa operazione. È un libro che, come talvolta accade, mette più dubbi di quanti non ne risolva. Anzi, l'impianto di questo libro è per l'appunto quello di problematizzare al massimo il nostro approccio alle fonti di quest'epoca, l'approccio alle fonti archivistiche, che molto spesso noi riteniamo essere strumenti neutrali, che basta collazionare, ordinare in maniera analitica, per viscerarne poi un filo di notizie nuove, e invece la massima preoccupazione delle notizie è informarci che vanno adoperate con la cautela dovuta al tempo in cui chi ha scritto, che sempre una persona, un individuo, le fonti ha lavorato, il modo in cui la persona che ha scritto le fonti poteva essere influenzata nelle sue linee. Detto questo, ed è giusto una toccata e fuga, parlerò, come mi sono proposto, diciamo così, più del piano dei risultati. Ora, che cosa ci racconta di nuovo dal punto di vista dei risultati sulla storia delle strutture e dei luoghi nell'amministrazione austriaca del mandato re tra 49 e 59 questo libro? Beh, intanto va detto che è il primo contributo di grande respiro che analizzi un terreno altrimenti del tutto disertato. Il decennio cosiddetto di preparazione, come è noto, viene studiato essenzialmente, è stato studiato dalla storiografia italiana attraverso una prospettiva di tipo ideologico che mirava a ricostruire i prodromi, gli elementi anticipatori di quella che sarebbe stato poi l'esito della fine del processo di unificazione nazionale. Ecco, in questo libro, per intenderci molto chiaramente, di Mazzini non si parla, non si parla di Renato di Belfiore, non si parla di questo versante della storia di quegli anni, si parla di Radetzky, ma se ne parla in una maniera diversa da quella alla quale normalmente ci si accosta, ma si parla soprattutto di una serie di fenomeni che fin qui la ricerca ha molto lasciato in onda. Io penso che si possa dire che la storiografia ha molto letto questo decennio sotto la luce della stato d'eccezione, la Osnabrück Zustand, vale a dire i quattro anni durante i quali la Betti godette effettivamente di prerogative e di poteri assolutamente inediti e particolari, che fece gravare con estrema crudezza sui sudditi del territorio lombardo lento, perché si trattava di proseguire sostanzialmente negli anni dopo il 49 una guerra che di fatto era dichiarata, anche se chiusa dal punto di vista militare, ma che continuava a perdurare. La convenzione della Vietti era che le province italiane dopo il 48 si potessero governare unicamente mani militari sostanzialmente, e quindi la guerra andava proseguita con i mezzi eccezionali. E però il gran merito di questo libro ti faccio vedere che Radetzky è uno degli elementi i quali ruotano la vicenda d'ondato lento di questi anni, ma non è probabilmente il principale. E come non è principale Radetzky, per dire, non è più principale alcuna delle persone menzionate, ricostruite, scartellate finemente in questo volume. Nel senso che il soggetto centrale della riflessione dell'analisi è un soggetto impersonale. È lo sviluppo dello stato amministrativo che in Austria è particolarmente accentuato nel 48, non dimentichiamoci che prima del 48 nell'impero asburgico, nel suo insieme, vigeva ancora una costituzione con larghissimi tratti feudal signori che non prevedeva una verticale compiuta dello Stato moderno, quindi una piena, un pieno assorbimento dei poteri pubblici da parte dello Stato. Viceversa, nel contesto austriaco generale, all'interno si situa questa vicenda della vicenda Longardo-Della, in questo decennio, il decennio neo-assolutista, per la prima volta sostanzialmente noi assistiamo alla messa in mora dal punto di vista della gestione del potere della signoria fondiaria e dei gruppi che alla signoria fondiaria si appoggiavano. O meglio, perché questo è il nucleo poi dell'argomentazione di Rita Nazzoni, non alla messa in mora in senso assoluto, ma semmai a una nuova intreccio tra questi gruppi sociali, l'antica aristocrazia, e il servizio dello Stato, il servizio pubblico, in maniera tale che primo degli elementi ritragga luce dall'altro e viceversa l'altro, che è l'elemento nuovo dello Stato amministrativo, a sua volta riesca a trarre luce dalla presenza al proprio interno come quadro dirigente di una componente aristocratico di vecchia tradizione e di grande significato dal punto di vista del riconoscimento sociale. È uno dei nodi nevralgici di questo libro, ogni volta che accade spesso, che l'autrice si imbatte in qualche membro di qualche schiatta nobiliare austriaca, il quale si trova a esercitare una funzione importante nel Longardo Veneto, è riconoscerlo come presente al suo luogo di governatore di Civitatis di Statale, non più come persona che esercita un potere per proprio diritto, Eisenbrecht, ma come persona che esercita un potere per commissione e per conto di chi? Per conto dell'imperatore, no, per conto dello Stato. Questo è un primo tronco d'analisi che è interessante proporre. E uno degli accorgimenti anche analitici dell'autrice è quello di ripercorrere la storia dei governatori, dei responsabili delle cariche più alte, quasi sempre austriaci in servizio, nelle due province del Veneto di quest'epoca, per appunto alla luce dell'intreccio tra quella che è la loro storia passata, una storia che viene inseguita fino addirittura a generazioni e generazioni indietro. Ovunque è possibile, del governatore si ricostruisce una sorta di genealogia che torna indietro e illustra i ruoli che prima il padre, poi il nonno, quanto più lontano si può andare, avevano avuto nella vita pubblica austriaca. Per scoprire poi questi uomini, che sono ancora in gran parte membri di casate nobiliari, attivi con idee che non sono affatto omogenee in quest'area territoriale estremamente difficile da governare dopo le vicende del 48, con un rapporto che è un rapporto essenzialmente di servizio. È gran fascino, secondo me, il capitolo di questo libro in cui viene ricostruita la storia che ha portato di generazione in generazione questi uomini a essere presenti in un dato tempo in questi anni, un po' prima la casa. Per accorgersi che la ricchezza, la varietà, la pubblicità delle loro posizioni politiche, questo è un altro grosso contributo che gli proposte, no? Noi conoscevamo questo decennio sostanzialmente sotto il nome di Radetti. Qua ci si presenta molto più sfaccettato. I protagonisti sono molti, hanno idee diverse su quello che si tratta di fare. Se per esempio la Costituzione del Longardo Veneto vada spinta in senso liberale, se vada spinta in senso che potremmo chiamare federativo centrale, o se vada invece abitata in senso assolutistico. Ma l'autrice è pronta a farci vedere come anche queste etichette che noi appelliamo molto spesso nel concreto tragitto esistenziale di uomini che sono provati a essere iscrivibili nell'una o nell'altra categoria perdono di senso. Si può essere al tempo stesso amico dei liberali e però con un tipo di tragitto che è un tragitto di tipo nostalgico, quale, nel caso di alcuni dei governatori trattati in queste pagine. O si può essere assolutisti, però interpretare un segno di apertura sociale ben presto, ben deciso, il proprio ruolo di ministro e sovranista. Una delle preoccupazioni del libro è invece che lo stato amministrativo non è una permanenza, cioè i gruppi sociali che giocano un ruolo, sono rappresentati in misura varia e imprimono, a seconda delle ideologie che li animano, un certo tipo di lettura alle strutture che sono comandati ad amministrare, comandati a guidare. Non è dunque una creatura neutra dello Stato amministrativo, sebbene nel suo effetto generale abbia il potere di verificare quasi quelle che sono le comparse degli individui al coscienza dell'arena più discreta in cui si muovono. Dal punto di vista, diciamo così, della lettura della società contemporanea di quest'epoca, io credo che questo libro ci racconti un qualche cos'altro di molto importante. Anche qua io adopero quel punto di riferimento perché questo è facilmente nel detto di tutti, non per altri motivi, il simbolo dei reti del potere militare, dell'arbitro, della tirannia da un lato, e invece alcuni processi che vengono illustrati in questo libro dall'altro. Ecco, noi possiamo dire che in questo decennio, alla luce dei risultati proposti in questo volume, sicuramente ci fu, in maniera non univoca, in maniera certo spesso confusa, contraddittoria, ma come contraddittorio era questo decennio in tutta l'Austria, non soltanto in provincia italiana, un tentativo di avvicinare, molto più di quanto non fosse stato fatto in precedenza, lo Stato all'alta società. Ci sono alcuni snodi di questo volume che sono difficili da cogliere per una persona che non sia confidente con le istituzioni di nuca, che è la vita amministrativa con tanto verità, che però sicuramente danno una testimonianza assolutamente univoca in questo senso. Per esempio, diventa non infrequente in questo decennio trovare come delegato provinciale, cioè come prefetto, come capo di una provincia, un insieme di personaggi quali prima del 48 sarebbe stato assolutamente inimmaginabile trovare in quel tipo di collocazione, cioè personaggi espressivi del mondo delle congregazioni provinciali. Le congregazioni del Lombardo-Veneto erano istituzioni che molto a lontano, molto vagamente, si possono in qualche modo accostare agli stand caratteristici delle province dell'Italia. Erano assemblee rappresentative cettuali, anche se non erano unite, dei poteri in maniera materia fiscale soprattutto, di cui invece erano investiti gli stendi delle province dell'Italia. Erano organi che prima del 48 avevano offerto qualche spazio di manovra a notabili fondiari soprattutto, in parte retribuiti, in parte no, i quali in alcuni casi erano arrivati a farsi una concorrenza elettorale anche selvaggia, per riuscire a coprire una carica come quella di deputato a una congregazione provinciale, una congregazione centrale, che se non dava una contraparità di tipo politico, però ovviamente consentiva a chi fosse impadronito una certa possibilità di maneggio esterno della macchina amministrativa, banalmente la possibilità di fare dei favori. E questo era nella prospettiva di un notabile un ruolo assolutamente appetibile, che meritava l'investimento di una campagna elettorale e di una faticosa manovra per arrivare al potere di queste gare. Ecco, figure come queste, prima del 48, noi come delegati provinciali, cioè come funzionari di Stato, come funzionari di carriera, non le avremmo trovate mai. Dopo il 48, il disegno che è ricostruito da una ricerca prosopografica molto minuta, che prende la parte iniziale del volume, qui c'è un lavoro certosino che merita tutto il riconoscimento dovuto a una fatica che si disperde per mille libri per riuscire poi a piattare tutti i film. Ebbene, si dimostra come invece molto spesso, diciamo così, i rappresentanti dello Stato nella provincia, dopo il 48, siano spesso persone le quali fanno parte di questo milieu che non è il milieu dei turisti, avrei diritto a aspettarsi dei turisti come prefetti, come delegati, bensì i notabili locali, i quali saltano completamente tutte le tappe di carriera. Mentre prima del 48 era normale che la carica di delegato, cioè del prefetto, fosse l'apice di un faticoso corso burocratico che poteva durare anche 25 anni, ruoli inferiori, spostamenti, trasferimenti, insomma il tipico profilo di un funzionario di carriera, noi troviamo moltissimi rappresentanti dello Stato della periferia che arrivano direttamente a ricoprire questo ruolo dalle aule della congregazione provinciale in cui stavano fino a quel momento. Cioè, da un ruolo di notabile passano direttamente a un ruolo di alto funzionario. E la cosa molto significativa è il diverso, a mio parere, io sono fondamentalmente d'accordo con l'autrice quando dice che una lettura sociale del corpo dei funzionari con grado verde di quest'epoca non dà grandi risultati in termini assoluti. In termini comparativi, tuttavia, a me pare, per esempio, interessante vedere quanto è diversa la situazione della Lombardia rispetto a quella del Veneto. Ora, il 48 a Milano e Venezia era stato un fenomeno di fermento sociale e politico dai volontari abbastanza diversi. Il 48 milanese, a dispetto del ricordo che se ne può avere attraverso le narrazioni di Carlo Cattaneo o di Cristina del Gioiuso, era stato un 48 essenzialmente criminale. A prendere il potere da Milano insorta erano stati gli uomini delle congregazioni provinciali, nomini soprattutto, Carlo Casati. A essere penalizzati dopo il 48-49 da radisti erano stati anche in gran parte i nomini lombardi, i quali nel 53 si erano visti, coloro i quali erano indicati, sequestrare per esempio tutti. È molto significativo il fatto che laddove in questo decennio incontriamo in Lombardia degli ex deputati di congregazione provinciale, di congregazione centrale, di coprire una carica burocratica, servizio di Stato importante, questi uomini sono di nascita dura. Nel senso che qua molto lentamente si coglie lo sforzo di continuare a penalizzare l'aristocrazia in Lombardia, perché è tenuta come una delle forze che hanno più fatto, ovviamente, per scalzare l'Unione Austriaca durante il periodo rivoluzionario. In Veneto, viceversa, questo arrivo di ex membri di congregazione provinciale o centrale a carico delegato ha un segno nettamente nobiliare. E io infatti mi studierei provando a pensare che il 48 di Venezia, come ci ha raccontato Covinto, per esempio, nel libro che ho visitato, è un 48 di avvocati. Venezia, il 48, ha un segno sociale completamente diverso. La ricostruzione della vita, come i rapporti di potere si distribuiscono nel decennio successivo, ce ne davano cioè due comportamenti diversi, due trattamenti diversi. La mia sensazione è anche un'altra, però, cioè che pur arrestandosi all'interno di un discorso che è tutto interno alla cornice statuale, alla cornice amministrativa, questo libro ci dia anche indicazioni importanti su qualcosa che si muove all'esterno, che l'autrice non ha affrontato direttamente e che però, per conto mio, con una prospettiva minimamente corretta, si può utilmente richiamare all'appello del suo discorso. Cioè il fatto che noi ci troviamo di fronte a società molto modificate rispetto a quelle anteriori al 48, e modificate anche qua con tratti differenziati molto forti. È un qualcosa che va chiarito, e questo libro comincia a dare un contributo importante, un discorso che sicuramente ha bisogno di tanti altri tasselli per prendere un minimo di omogeneità, che il decennio 49-59, dal punto di vista della mutazione degli equilibri sociali, per la Lombardia è il decennio decisivo dell'Ottocento. Noi ci troveremo appena dopo l'unificazione nazionale con dei fenomeni assolutamente incomprensibili, se restiamo lo sguardo alla conformazione dello Stato lombardo. Cioè, incontreremo all'improvviso là dove da generazioni, da secoli, da sempre, il ruolo di primo cittadino di Milano è stato in mano ad un membro della famiglia patrizia, ad avere appena dopo un'età una serie di sindaci che sono quasi sempre i presidenti della Camera di Commercio con relazione a questo tipo di attività strettamente professionale. Ecco, l'ascesa che la borghesia lombarda compie in questo decennio è un qualcosa che emerge per esempio anche da questo. Cioè, là dove si tratta di chiamare un notabile per pacificarsi in qualche modo con la società, in Lombardia si chiama un borghese, si chiama un ricco possidente, si chiama magari qualcuno che abbia anche interessi di tipo industriale o commerciale. In Veneto si continua a cercare questa funzionale area di consenso rappresentata del mondo. Ma questo discorso del dialogo è sicuramente un dialogo che non si arresta. È un discorso che ha un suo rilievo preciso anche dal punto di vista delle riforme amministrative di questi 10 anni. riforme amministrative di cui in realtà quello che noi sappiamo lo dobbiamo ai lavori precedenti, nel senso che in Italia presso che nessuno se ne era occupato, ma in una serie molto nutrita di contributi, 7 o 8 almeno mi avrei contato, insomma, no? Fatti nel corso di una decina d'anni, Dritte ci aveva già offerto alcuni elementi di questo tracciato di riforma amministrativa in questo decennio. Va detto che questo libro non è un libro che raccoglie, come talvolta si fa con operazioni di comodo, scientificistica, anticipazioni già svolte in altre sedi per poi darle una cornice unitaria e far diventare qualcosa di più stesso. La conoscenza di questi contributi, per chi legge questo libro, è data per scontata, è bene saperlo. Non si esaurisce, diciamo così, la conoscenza di quello che Dritte Mazzola ha dato per questo periodo unicamente con questo libro. Chi è interessato bisogna che si vada a leggere anche tutti i contributi precedenti, pubblicati in qualche parte anche in italiano, quindi facilmente accessibili. Beh, la vicenda che era esposta era questa, che come che sia passato il 54 soprattutto, ma in misura crescente dopo il 57, si assistette a un netto mutamento di rotta da parte della politica della comunità austriaca nei confronti di queste province. Nel senso che anche dal punto di vista dei poteri, dei cessi agli organi rappresentativi, non soltanto a livello di congregazioni provinciali e centrali, ma anche a livello di quella centro militare e demografica decisiva della vita sociale di un paese che sono i comuni, si cercò indubbiamente di restituire fianco. Non sempre si riuscì dal punto di vista operativo, ma lo sforzo dei dibattiti c'è stato. Apprendiamo per esempio da questa ricerca che tra il 50 e il 53 fu all'esame degli organi competenti l'idea di dotare ogni ufficio comunale di un proprio segretario. In precedenza gli uffici comunali erano il segretario, era una ministra di tal commissario spirituale, una sorta di vice delegato, vice prefetto, competente per un distretto più piccolo dal punto di vista dell'estensione territoriale. Ebbene, munire comuni, quali erano i diritti, questa era la caratteristica della Costituzione Lombardo-Veneta che era già tra i 48 che si mantenne, anche in una struttura burocratica propria, aveva il significato. Dal punto di vista della competenza burocratica del potere effettivo che potrebbe essere concitato. La stessa cosa avviene a livello di congregazioni provinciali e centrali. Le centrali vennero istituite nuovamente nel 1855 dopo 6 anni di silenzio, però al momento della loro istituzione vennero dotate di competenze finanziarie molto maggiori rispetto alla precedente. Qua la ricerca da primi input per un lavoro da svolgere e che però qua siamo fortunati, c'è qualcuno che sta svolgendo in maniera sistematica proprio per l'area delta, un giudice che lavora anche in Stato di Venezia e che sta proprio lavorando al tema delle congregazioni, questi corpi rappresentativi nel corso degli anni 50 e del 2000 particolare. Un ultimo spunto tra i molti che sono possibili estrarre da questo libro che vorrei aprire, ed è lo spunto relativo alla progressiva dissoluzione, si potrebbe dire, della figura del sovrano che viene seguita nel capitolo dei cardinali di Bologna. Qui il discorso risale molto all'indietro, cioè risale addirittura alle istruzioni date dal Parlamento al Ferrante Comunale nel 500, il tema del rapporto tra l'imperatore e i suoi governatori d'Italia ha una storia molto antica, ovviamente, secondo il territorio considerato per Milano. C'è tutta la parte spagnola, ma c'era pur sempre il forte legame con Asburgo in quell'epoca. E c'è una notazione molto interessante. Seguendo questo tragitto di Dritte Mazzola, ed è un tragitto, come dire, io ne estraggo la mia interpretativa che se ne trae, ma è costruito in maniera certosina, con schede su schede, in biografie dei singoli governatori, è un discorso che è convincente del fatto che è dato sui dati estremamente solido, concreto. Le accade di osservare come la figura del governatore nell'antico regime fosse più quella di un ambasciatore in terra straniera che quella di un organo esecutivo di uno Stato, no? E man mano che risale, man mano che si approssima agli anni terminali del regime asburgico in quest'area dell'Italia, il discorso si fa sempre più cadenzato, sempre più preciso. fino ad arrivare a dirci: ma alla fine l'operatore di quest'epoca che cos'è? È in realtà sempre più una rotella, indipendentemente dalle sue proporzioni ideali, quindi sono documentati molto diversi, l'operatore e il governatore, è sempre più il capo della polizia. Della polizia contemporanea, cioè non della polizia di tipo capitalistico settecentesco, che comprendeva una preoccupazione di pubblico bene largamente più vasta di quella veramente preventiva o repressiva dei fenomeni di disordine sociale o problematica dell'ordine pubblico. È sempre più una rotella, è sempre più dipendente da un ministero, non conosce più l'imperatore. Questa mi pare una parte terminale molto suggestiva, no? Cioè siamo arrivati a un sistema che neanche ai suoi massimi livelli di dirigenza rappresentati, neanche a livello di un governatore, conosce più quello che dovrebbe essere ipoteticamente il cardine del sistema. E sono note che ci fanno capire come, a dispetto della gran complicazione del discorso che si può attorno a questa ossatura, una linea, indubbiamente, fatta magari di compensazioni, passeranno passiglietto, di paralizzazione reciproca spesso tra diverse correnti ideali che si incrociano più nel fatto amministrativo, una linea sempre da là, che era appunto questa linea dello Stato sempre più spersonalizzato. Chiudo con un rammarico, perché poi dopo aver tanto notato bisogna anche dire qualche cosa, ovviamente, di... Ecco, a me un po' dispiace per un verso che qualche frutto di ricerche precedenti non sia stato sviluppato in questo volume. A me, per esempio, sarebbe incuriosito di più sapere qualche cosa anche sul comportamento e sulle opzioni di interi gruppi nuovi dirigenti della Lombardia Veneta che affioravano talvolta dalle ricerche precedenti del Vittorio. Io penso a quel gruppo di notabili nuovi che venne ricevuto e convocato dal ministro Bach nel 1951, di cui veramente ho cercato di sapere la seconda puntata attraverso le pagine di questo libro, per un verso, e per un altro forse il fatto che diciamo così, un po' tutta inserita dentro allo studio del fatto amministrativo, talvolta l'autrice non ha reso abbastanza merito a quello che una società è capace di fare anche a prescindere dall'amministrazione. Io ti posso citare un passo che mi ha colpito in maniera particolare, c'è un passo relativo ai governatori pre-48eschi che in un discorso che analizza per appunto quest'opera di polizia in senso cameralistico che i governatori prima del 48 hanno potuto svolgere, si elenca una serie di meriti di questi governatori concretamente operanti in Italia, tra i quali la fondazione di asili, la fondazione della società di incoraggiamento d'arte e mestieri, la fondazione di istituzioni che erano private. Cioè la società non dipende in maniera così drammatica dallo Stato. È vero che lo Stato sicuramente ha un grandissimo potere di orientare le iniziative e in modo differente, però talvolta in questo libro finisce forse per riuscire un po' troppo lungo. Io passerei adesso il testimone, dobbiamo farlo così a quello. Grazie. Ah.